La parola adesso al professor Santino Caracciuti per una comunicazione sul tema riflessione e silenzio. L'idea che vorrei qui presentare è quella di una stretta correlazione, al di là di ciò che appare già come ovvio, tra riflessione e silenzio. Il concetto di riflessione è qui inteso, in verità, in un significato piuttosto specifico, quello precisamente evidenziato in modo particolare dalla cosiddetta filosofia riflessiva, la filosofia che ha come sua peculiarità la tematizzazione del soggetto in quanto tale, al di qua della sua traduzione oggettivante. Evidentemente l'idea o tesi in questione presenta dei suoi presupposti o, se vogliamo, un suo itinerario teoretico che è necessario percorrere, anche se in modo sommario, come cercherò di fare qui di seguito. Parola e oggettivazione. Il presupposto fondamentale della mia tesi ritengo sia costituito dalla stretta connessione esistente tra la parola e l'oggettivazione. La parola come tale, o per meglio dire, la parola nel suo significato più comune, che potremmo denominare prosastico, dove si è affievolita la natura metaforica della medesima, è la parola è essenzialmente oggettivante. Il caso limite di questo processo di oggettivazione potrebbe essere costituito dal linguaggio matematico e ora in particolare da quello della sua versione informatica, dove tutto l'ambito del linguaggio è ridotto a dati, come tali appunto oggettivi, con piena adeguazione del segno e del suo segnato, o meglio, con la riduzione del segnato a segno, o, se vogliamo, con la considerazione nel segnato di quello soltanto che è indicato direttamente dal segno, che è poi quantificabile. È per questo motivo, si può pensare, che nelle discipline matematizzate il discorso sostituisce, al limite completamente, lo stesso svolgimento reale, concreto, del loro oggetto. È tale linguaggio matematico, vorrei precisare, l'ultimo esito di quel processo di allontanamento dal senso metaforico della parola che ha il suo inizio nel linguaggio prosastico. Qui l'aspetto espressivo, ancora legato più o meno fortemente alla soggettività, tende a oggettivarsi, appunto, assieme all'emergere della concettualizzazione e dell'astrazione. In verità, nel linguaggio metaforico come tale, l'oggettivo, pur presente in qualche modo, non è così esaustivo dello stesso linguaggio, poiché lì abbiamo, in misura più o meno rilevante, le vestigia della soggettività, o se vogliamo, la realtà ivi espressa non è un puro dato, ma una ripresa della medesima da parte del soggetto, una sua in qualche modo interpretazione. Come tale, il linguaggio metaforico reinterpreta più o meno soggettivamente il reale e pertanto questo rimane sottratto alla pura datità. Ma il linguaggio comune, prosastico, come dicevo, tende di per sé alla oggettivazione, tende a svestirsi della dimensione soggettiva di cui è impregnato nella espressione metaforica poetica, tende alla adeguazione con i dati, a esprimere appunto dei puri dati come tali oggettivi. C'è anzitutto una concezione linguistica di ispirazione sociologistica la quale considera il linguaggio metaforico, poetico, soggettivo, come un linguaggio malato, espressione di una coscienza malata, appunto. Penso alla tesi di Charles Blondel e al suo libro La conscience morbide, dove il linguaggio poetico, metaforico, è ritenuto come qualche cosa di ammalato, di anormale, essendo il linguaggio normale essenzialmente disoggettivizzato. Io sono ben lontano dall'aderire a questa tesi, ma di essa posso ben giovarmi per sottolineare, come dicevo, la tendenza del linguaggio a disoggettivarsi, ad adattarsi a esprimere al limite la pura datità. La parola, anche se nasce più o meno soggettiva, tende a svestirsi di questa sua soggettività, per assumere la forma di puro segno di un dato. E ciò, si può pensare, via via che procede la tecnicizzazione dell'esperienza e dell'esistenza umana, segnata proprio dall'emergenza via via crescente della datità, e in essa, direi tra parentesi, della necessità. Quando dunque io accosto il termine parola a quello di oggettivazione, intendo la parola non più nella sua sorgente, ma nel suo esito più o meno tecnicizzato. È questa correlazione, come dicevo, il primo presupposto della tesi che sto presentando. Mistero e silenzio. Il secondo presupposto, o la seconda tappa dell'itinerario di cui sopra, è costituito da un altro binomio, i cui termini vanno intesi anch'essi come strettamente legati, e cioè mistero e silenzio, nel senso che il mistero, come tale, comporta non la parola del dato, ma il suo opposto radicale, cioè il silenzio. È probabilmente nel mistero che è dato trovare anzitutto il silenzio. E il mistero, si può pensare, non è necessariamente e immediatamente quello religioso nel senso comune e positivo del termine, ma è già anzitutto l'essere, l'esistenza stessa, quale si affaccia alla mente dell'uomo nella sua purezza e originarietà. Quando Platone parlava di meraviglia, si può ritenere che intendesse proprio questo presentarsi alla mente dell'uomo del mistero dell'esistenza. Essa, come tale, nella sua originarietà, non può essere tradotta in termini di datità. E la meraviglia può indicare proprio questo suo sottrarsi alla datità e quindi alla delimitazione linguistica. Avvertire, riconoscere il mistero e mettersi in atteggiamento di silenzio, proprio perché le parole, decadute a segni, non lo riprendono e anzi, in fondo, possono tradirlo. Il parlarne sarebbe in certo modo una pretesa di dominio nei confronti del mistero, una pretesa di riduzione a dato. Sarebbe un circoscriverlo, cosa che contraddice evidentemente alla stessa idea di mistero. Il negare la realtà del mistero comporta, per questo motivo, il negare il valore del silenzio, il silenzio proprio della meraviglia. Di fronte al mistero, lo spirito resta senza capacità di comprensione, di cattura, mediante i suoi consueti strumenti concettuali. Tutt'al più può affermare di riconoscerlo, può parlarne più o meno metaforicamente e indirettamente, ma è un parlarne con la consapevolezza che si tratta di un linguaggio puramente allusivo, che la realtà di cui si parla e ben al di là di una sua traduzione o ripresa in termini di segni e di oggettività. È, d'altra parte, una constatazione e un riconoscimento, che potrei dire classico, quello del carattere ineffabile del mistero. Ciò che forse è meno comunemente recepito recepita, è invece la ragione di codesta ineffabilità. Ebbene, quello che vorrei suggerire a questo proposito è proprio una ipotesi di spiegazione radicale che si aggiunge e va al di là di quelle richiamate più sopra. Io direi precisamente che tale intraducibilità del mistero in termini di linguaggio sta, ed è appunto questa la mia ipotesi, nella natura non oggettivabile del mistero stesso, non oggettivabile, preciso, in quanto il mistero sta piuttosto ed essenzialmente dalla parte della soggettività. Illustrare codesta tesi, cioè la tesi della soggettività nel senso indicato del mistero, esigerebbe un cammino piuttosto lungo, evidentemente. Non qualche accenno alle tappe del medesimo può giovare a una sua preliminare comprensione. Direi, a questo proposito, che il mistero, in ultima analisi, è il mistero dell'essere, del suo fondamento, del suo senso. Ora, codesto fondamento, codesto senso, può essere dato soltanto da qualche cosa che è sulla linea della soggettività. Non solo e non tanto la soggettività della intellettività, quanto e soprattutto quella della libertà. Se esiste il mondo, se c'è l'esistere, è perché al fondo del tutto c'è la libertà, e precisamente la libertà causante, la libertà creatrice. Ed è evidente che la libertà non può essere oggettivata, essa costituisce il nucleo stesso della soggettività. Il soggetto è tale in quanto è libero, è causante, nel senso forte della parola, e cioè in qualche modo creante, pone l'essere radicalmente. L'essere può nascere soltanto dalla libertà. Il fondamento dell'essere può essere soltanto la libertà e così pure il suo significato. Per questo dico, il mistero non può essere oggettivato, essendo la stessa assoluta soggettività, e pertanto non può essere tradotto, espresso in parole. Il mistero domanda più che parole, silenzio. Un silenzio, si intende, consapevole. Un silenzio che ha attraversato il mondo del linguaggio, dell'oggettività, ed è risalito alla sorgente, alla pura soggettività, dove non sono necessarie le parole, anzi queste sarebbero dannose, perché tradurrebbero in oggettività ciò che è essenzialmente inoggettivabile. Filosofia e silenzio, ultimo punto. Sulla base dei due presupposti o delle due tappe qui richiamate, passo ora a illustrare brevemente la tesi specifica di questa mia comunicazione, e cioè il rapporto tra la riflessione, quale è stata teorizzata più espressamente dalla filosofia riflessiva, ripeto, e il silenzio. Una delle relazioni del convegno portava il titolo Poesia e silenzio. Forse ci sarebbe stato posto anche per una relazione su filosofia e silenzio. Precisamente vorrei dire che anche la filosofia è legata in modo essenziale con il tema del silenzio. Già ho accennato la platonica meraviglia, da cui appunto nascerebbe la filosofia. Ma sulla base di quanto detto appena sopra, la ragione di questa così essenziale correlazione tra filosofia e silenzio va cercata in modo ancor più radicale nella presenza, precisamente nella problematica filosofica, del tema del fondamento del senso dell'essere. Proprio per questa presenza preminente, la filosofia si incontra con il mistero e quindi con la soggettività, nella quale appunto il problema del fondamento dell'essere, del senso dell'essere, trova una sua, l'unica sua risposta. Ora, tutta più o meno la filosofia che avverte codesto problema come quello essenziale finisce in qualche modo per avvertire pure la necessità di un certo passaggio attraverso la soggettività. Ma tale passaggio è proprio soprattutto di una corrente di pensiero che in modo più esplicito lo ha tematizzato e teorizzato, al di qua della sua versione estremistica idealistica. Voglio dire la filosofia riflessiva, storicamente maturata soprattutto nell'ambiente filosofico francese. Riflessiva in quanto essa ha fatto e fa della riflessione, una riflessione, ripeto, non astrattamente, idealisticamente riduttiva a sua volta del dato, fa della riflessione il suo metodo e anzi il suo mondo. In questo senso, codesta filosofia, in vera, quello che si può ritenere, per quello che si è appena detto, l'assunto fondamentale della stessa filosofia, la posizione e attenzione al problema del fondamento e del senso dell'essere. Ora, la riflessione quale intesa dalla filosofia in questione mira proprio a cogliere il soggetto in quanto tale, al di qua della sua oggettivazione. Esso è atto e non dato, e la sua vera realtà può essere raggiunta soltanto mediante una risalita verso l'atto in quanto tale. Evidentemente codesta risalita si giova dei dati. Secondo lo sviluppo storico di tale filosofia, codesti dati sono costituiti ad esempio soprattutto dal movimento, dall'effort, dal gesto, dal simbolo, eccetera. Ma il risultato a cui mira, essendo la comprensione, una certa comprensione dell'atto, del soggetto in quanto tale, del creante e non del dato, del fatto, non potrà e non dovrà essere oggettivato e pertanto non potrà essere veramente espresso mediante il linguaggio. Anche la filosofia riflessiva, e per essa, a mio avviso, ogni vera filosofia, conduce in ultima analisi al silenzio. Essa attraversa certamente il dato, ripeto. In fondo la sua è piuttosto una conoscenza indiretta, perché, come scrive uno dei suoi principali rappresentanti, Aimé Forest, essa ritrova, sotto ciò che appare come dato, l'atto che lo fonda. E passando attraverso il dato, la filosofia riflessiva passa sicuramente attraverso il linguaggio, ma il suo scopo e il suo significato è quello di tendere, come dicevo, a risalire a ciò che trascende e fonda il dato, e pertanto il suo itinerario non si conclude con la parola, ma appunto con il silenzio. Si tratta del silenzio in cui vive l'atto, la soggettività libera e creante. Le parole qui non hanno più posto, anche se sono state necessarie per arrivarvi. D'altra parte, ed è questa l'ultima osservazione in quanto la suprema, anche in altri itinerari dell'esistenza le parole sono sì all'inizio, ma non alla fine. Non sarà questa che sto per annunciare l'interpretazione più immediata di un celebre passo dantesco, ma forse non è impossibile intendere in tale senso le parole della commedia, più non vi leggemmo avante. Anche l'amore, anzi soprattutto esso, più ancora della riflessione filosofica, il vero amore, non soltanto e anzi non tanto l'amore passione, cui più direttamente si riferisce il passo dantesco, l'amore, sintesi suprema dell'esistenza e dell'essere, pur partendo dalle parole, ha il suo vero e ultimo respiro nel silenzio. Ringraziamo il professor Cavasciuti per la linearità delle sue riflessioni, per la lucidità cartesiana delle sue argomentazioni. Con questa comunicazione si chiudono gli interventi del nostro convegno. Lo sono io, ma probabilmente lo sarete anche voi, pieni di una stanchezza felice fondamentalmente. Felice per come complessivamente si è svolto il nostro convegno. per le cose dette, ma soprattutto per le molte cose udite. Ho cominciato 2 giorni fa ringraziando e voglio concludere ringraziando di nuovo tutti i convegnisti, non soltanto coloro che hanno portato il contributo di una relazione o di una comunicazione, ma soprattutto coloro che hanno svolto il ruolo importante, centrale, fondante dell'essere semplici uditori. Un ringraziamento particolare a Monsignor Roger, presidente dell'Istituto di Scienze Religiose, ai professori Menestrina e Fusal, perché per la buona riuscita dei lavori molto dobbiamo essere grati a loro. Al moderatore non spetta l'ultima parola, quindi io non tirerò nessuna conclusione, perché l'ultima parola spetterà agli atti, a quel volume che raccoglierà i contributi e le relazioni e che speriamo di vedere stampate presto, addirittura sul finire dell'anno prossimo. Sarà meditandole, ascoltandole, leggendole, rileggendole, che ognuno di noi trarrà privati le proprie conclusioni. Il tema che abbiamo affrontato, silenzio e parola, ha consentito di mettere le mani su quello che per l'uomo del XX secolo è un nodo gordiano. Abbiamo detto, da più parti è stato detto, siamo in presenza di una morte del silenzio, di una morte dell'ascolto, di una banalizzazione e trivializzazione della parola, di un parlare che diventa un fatto meramente palatale, che investe soltanto corde vocali e non più binari cerebrali o i sentieri del cuore. Una parola che è disseccata, inaridita, disoccupata, vuota. Il nostro è stato un convegno interdisciplinare. È stato un convegno interdisciplinare perché i problemi che l'uomo dei nostri giorni ha davanti sono tremendamente complessi. Ed è possibile trovare una soluzione soltanto sommando competenze diverse. Demonat ha scritto che se Leonardo da Vinci tornasse e vivesse ai nostri giorni potrebbe essere tutt'al più un bravo ingegnere meccanico, perché appunto ormai è possibile soltanto, se si vuole lavorare fruttuosamente, un lavoro specialistico. E sommando specializzazioni diverse che l'uomo moderno troverà, se riuscirà a trovarla, la soluzione ai problemi che lo fronteggiano. Concludo ringraziando tutti per la collaborazione e per l'aiuto. Grazie.